E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo. Focus Economia di Sebastiano Barisoni. 17:10 minuti, inizia l'ultima puntata della settimana di Focus Economia e prima di raccontarvi i temi di questa giornata economico-finanziaria, della borsa e delle interviste che avremo, apriamo in maniera un po' particolare, mi ricollego con la redazione, quindi con Simone Spezia, perché come avete sentito proprio nel finale del nostro GR è arrivato l'annuncio delle dimissioni di Mubarak e quindi vorremmo collegarci anche con il Cairo. Simone. Sì, grazie Sebastiano, e noi ci colleghiamo appunto con il Cairo e con l'inviato del Sole 24 Ore, Alberto Negri. Allora Alberto, Mubarak si è dimesso, sentiamo di sottofondo la piazza. Sentite che cosa sta succedendo qui, un milione e mezzo di persone che esultano. Questa piazza Tahrir, che è stata per oltre due settimane la piazza della rivolta, ha vinto che Mubarak se n'è andato, ma adesso il paese lo governano i militari, perché Suleiman, il vicepresidente, ha appena annunciato che saranno loro a prendere la gestione del paese. Siamo ancora in attesa di avere i particolari di tutto questo, ma sicuramente questo è un momento storico per l'Egitto e forse per tutto il Medio Oriente. Grazie dunque ad Alberto Negri per questo aggiornamento. Alberto, un'altra domanda: quali sono secondo te le possibili evoluzioni a questo punto, visto che i militari hanno preso il potere? Allora, qui in Egitto si era sempre detto che i militari comandavano ma non governavano. Adesso forse c'è una svolta, perché oltre a comandare, cioè essere l'ago della bilancia del potere in questo paese, forse si propongono anche per governarlo. Si erano già dichiarati oggi come i garanti del processo per portare le elezioni in paese. Adesso vedremo se mantengono queste promesse e come intendono mantenerle. Quale sarà il ruolo del vicepresidente Suleiman? Viene messo da parte? Chi negozierà con l'opposizione questo processo? Insomma, quale sarà l'applicazione politica delle grandi novità istituzionali che aspettano questo paese nei prossimi giorni, nelle prossime ore forse addirittura? Ecco, questo è il grande interrogativo, però uno si è già sciolto: Mubarak non c'è più. Mubarak si è tolto di mezzo e in qualche modo si è voltata una grande pagina nella storia di questo paese. Vedremo dove ci porterà. Grazie dunque ad Alberto Negri, ed è tutto per questo aggiornamento sulla situazione in Egitto. Vi riaggiorneremo naturalmente nel giornale radio alle 18. Sebastiano, a te di nuovo la linea. Sì, grazie a te Simone Spezia e Alberto Negri in collegamento dal Cairo. Allora noi partiamo con la scaletta classica di questo programma, poi massima disponibilità per ulteriori aggiornamenti anche nel corso della diretta. E allora subito le notizie in breve. Partiamo dalla borsa: Milano più 0,70%, Parigi più 0,40%, Francoforte più 0,60%, Londra più 0,70%, l'America più 0,20%, euro debole a quota debole. Euro sotto quota 1,36, a 1,3547, molto bene Buzzi Unicem più 3,24, Tenaris più 2,1, come Saipem, l'1,90 lo guadagna Pirelli, l'1,40 Exor, l'1,30 Terna e anche Intesa San Paolo e Mediaset. L'1,20% è il rialzo di Campari e di Fiat Industrial, l'1,1% quello di Impregilo e di Finmeccanica. Perde STMicroelectronics il 2,30%, qui pesa la vicenda Nokia Microsoft, già ci chiedete se ce ne occuperemo, certo che ce ne occuperemo tra brevissimo. Fondiaria Sai meno 1,44%, Azimut meno 0,70%. Ce ne occuperemo di Nokia e Microsoft, dell'annuncio, sorpresa, devo dire, dell'accordo tra due colossi nel mondo, uno della telefonia, l'altro ovviamente del software. Titolo molto male in borsa, mi riferisco chiaramente per quello che riguarda il titolo Nokia, che anche in Italia, a Milano, dove è quotato Nokia Corporation, perde il 14,51%, è il peggior titolo ovviamente in questo momento. e lo resterà, visto che a me manca poco, alla chiusura, seguito da Unione Alberghi Italiani. Però, ripeto, meno 14,5% adesso il calo di Nokia Corporation a Piazza Affari a 7 euro per azione. Vi anticipo che oggi tratteremo di Nokia, Microsoft, della vicenda quote latte, perché anche se non si capisce se veramente questo decreto sia stato approvato, noi, lo dico con il massimo rispetto, ci auguriamo di no, perché stando a quello che l'agenzia hanno battuto poco fa, praticamente sarebbe stato approvato una proroga di 6 mesi per le multe alle quote latte. Ricordo che si tratta di multe di qualche centinaio di allevatori che nella zona, spesso diciamo della zona padana, Brescia, ma non solo, che non hanno pagato, non hanno rispettato le quote assegnate a livello europeo sulla produzione di latte, mentre tutti gli altri, cioè il 99,9% degli allevatori lo hanno fatto e hanno comprato le quote. Ecco perché da sempre siamo critici su questo slittamento della proroga. Vi fu uno scontro durissimo tra l'allora ministro dell'agricoltura Galan e la Lega, il ministro dell'agricoltura Galan, appena nominato, e la Lega in tema di quote latte. Galan arrivò a minacciare anche le dimissioni, ma insomma non si capisce perché per alcune centinaia di agricoltori che non hanno pagato, non hanno rispettato i tetti, adesso noi tutti dovremo pagare per questo slittamento 30 milioni di euro che arriverebbero da un taglio lineare fino al 3% della tabella C della legge di stabilità, quindi anche dai fondi per le politiche sociali, per la famiglia, per il diritto allo studio e per i finanziamenti all'università. Con la polemica che c'è in questo momento, corretta, da parte dei disabili, le difficoltà che hanno, che vi sono nel reperire fondi per tutti gli studenti diversamente abili, per chi ha bisogno di avere l'insegnante di supporto, di tutto abbiamo parlato in questi giorni, non si capisce, lo dico con polemica stavolta, non si capisce perché pagare 30 milioni di euro per qualche centinaio di allevatori che non hanno rispettato quelle che erano le quote prefisse dall'Unione Europea, fissate dall'Unione Europea, mentre gli altri sì. Ma perché? Perché pagare sti evasori? E oggi ne avremo un po', visto che abbiamo avuto una dura scontro con la Regione Lazio in questa settimana per via degli sprechi nella sanità da un lato, del taglio di un ospedale importantissimo per i bambini con problemi neuromotori. Poi ci siamo spostati anche alla provincia autonoma di Bolzano e avremo un aggiornamento anche oggi, che non riconosce l'Unità d'Italia, non vuole festeggiarla, però ogni anno i cittadini di Bolzano e provincia ricevono 2.032 euro più di quanto non versino, a differenza dei lombardi, dei veneti, dei friulani, più tutto un insieme di agevolazioni che hanno. E allora ogni tanto riconoscere che in Italia non si sta così male non sarebbe sbagliato. Oggi ci occupiamo anche del Veneto, avremo ospite infatti il sindaco di un paese in cui è stato negato, diciamo, la possibilità di dare, non c'è nessun populismo, attenzione, ascolteremo l'intervista, il sindaco non ha soldi, dice che ha un problema di conto economico, che da Roma gli è arrivata una stretta economica, Fossalta di Piave il paese, provincia di Venezia, insomma, cosa è successo? Le maestre di un asilo davano il loro buono pasto a una bambina extracomunitaria, residente lì, assolutamente legale, perché il padre lavora in Belgio, la madre non ha soldi per andare avanti, vive ospite, il sindaco gliel'ha proibito dicendo che il buono pasto è incedibile. E non è un problema di buono pasto, perché di mezzo c'è proprio l'idea di dove si debba andare a risparmiare. Comunque un po' di pazienza, ci arriviamo in intervista. Ci chiedete, ma siete in grado di dirci se è stato approvato o no questo decreto? Allora, abbiamo chiamato la Coldiretti, che è furibonda poco fa, e ci hanno spiegato, mi riferisco alle quote latte, che sembra che il PD abbia posto un vizio di forma su questo decreto. Infatti i comunicati che di solito arrivano in questi casi, Confagricoltura, Coldiretti, CIA, non sono ancora usciti perché ancora non si capisce se il decreto sia veramente approvato. C'è chi scrive: è la Lega che li difende? Sì, la Lega li ha difesi, lo sappiamo, è inutile, non è un mistero, dai. La Lega ha sempre difeso questi 490, vado a memoria, ma la cifra è intorno a quella, 490 agricoltori che hanno sforato il tetto delle quote latte, 30 milioni di euro, pensate un po'. bene, va bene, oggi è venerdì, non bisogna arrabbiarsi troppo. Allora, mille proroghe, sempre il decreto mille proroghe, un mese in più per dichiarare le case fantasma, quindi il termine viene spostato dal 31 marzo al 30 aprile e slitta di un anno il blocco degli la proroga del blocco degli sfratti per le categorie disagiate. E sulle case, perché insomma gli sfratti per le categorie disagiate sono un problema sociale, perché c'è il diritto del proprietario, ma c'è anche il diritto, insomma, di chi lì vive. Ma poi c'è questa cosa molto interessante sul Pio Albergo Trivulzio di Milano. Si evoca sempre il 92, 93, 94 con le manifestazioni di questi giorni, quando scoppiò Tangentopoli, 93-94. Tutto nacque, se ve lo ricordate, con Mario Chiesa e la mazzetta che fu trovata nel Pio Albergo Trivulzio. Allora, perché ne parliamo? Perché è nella bufera per il modo in cui ha assegnato e assegna i circa 1400 appartamenti. Non sono quelli dentro il Pio Albergo Trivulzio, sono appartamenti in giro per Milano, alcuni dei quali centralissimi, che possiede e gestisce. Perché, nonostante il nome Pio Albergo Trivulzio e la funzione storica, le case sarebbero state affidate a prezzi particolarmente vantaggiosi, non a chi aveva più necessità, ma a chi era più ricco. Stiamo facendo, diciamo, il welfare al contrario in questo paese. Forti con i deboli, deboli con i forti. Perché questo? Sentite la giustificazione del direttore generale Fabio Nitti. Insomma, perché chi è più ricco è più in grado di garantire il pagamento dell'affitto. Bellissima, no? Cioè, le case che devono essere date a chi ai bisognosi le dai ai più ricchi, perché i bisognosi, e se no che bisognosi sarebbero, hanno più difficoltà a pagarti l'affitto. Bellissimo, un appartamento da 62 metri quadri nella centralissima via Petrarca a 390 euro al mese. 390 euro al mese. Oppure 107 metri quadri in corso Buenos Aires a 590 euro al mese. Poi Fabio Nitti, in commissione De Magno a Palazzo Marino, ascoltato, non ha voluto consigliare la lista degli affittuari, ragione di privacy. Vedi che poi la privacy c'è in questo paese. Patrimonio immobiliare valutato almeno 400 milioni di euro. Pensate che su questo patrimonio immobiliare, il Pio Albergo Trivulzio, sapete quanto ricava in un anno? 7 milioni. Cioè praticamente guadagna il 2%. Scarso. E poi cosa fa a quel punto? Per mantenere in pareggio il bilancio deve vendere ogni anno appartamenti per un valore di 20-30 milioni. Chissà come li vende a questo punto, mi viene anche un dubbio. Chi compone il consiglio di amministrazione? 7 membri, 4 nominati dal comune e 3 dalla regione. Complimenti, complimenti anche al Pio Albergo Trivulzio. Direttore generale Fabio Nitti, quando vuole siamo qui, se vuole venire a parlarci, spiegarci, perché il principio, che ripeto, è il welfare al contrario. No, lo do ai ricchi, anche se costa con tariffe per non abbienti, perché i ricchi possono pagare l'affitto e i non abbienti sono più a rischio. Va bene, va bene. Basta con queste notizie che poi ci deprimiamo. Parliamo, partiamo con una cosa forte di economia internazionale, così usciamo dall'Italia un attimo, perché ogni tanto manca l'aria, e andiamo a ragionare di quello che capita come grandi alleanze mondiali. Poi arriveremo al sindaco di Fossalta di Piave, che, ripeto, non è tanto sul singolo caso, anche se c'è una bambina di 4 anni di mezzo, ma è proprio per capire che cosa non sta funzionando in questo federalismo ancora incompleto. Noi da sempre siamo a favore del federalismo fiscale, l'abbiamo detto, lo chiariamo. Parliamo di Nokia e Microsoft. Allora, a sorpresa, ma forse verrò smentito fra qualche secondo, Nokia e Microsoft hanno firmato, a sorpresa almeno per me, hanno firmato un'alleanza per fronteggiare la concorrenza di Google e Apple, quindi guerra tra giganti nel settore, non so neanche più come chiamarle, telecomunicazioni, information technology, ormai tutto si sta mischiando, no? L'internet e la telefonia una cosa sola sono ormai. Microsoft metterà a disposizione di Nokia il sistema operativo Windows Phone 7 per cercare di recuperare terreno su Google e Apple, che rispettivamente hanno un sistema che si chiama Android e l'iPhone. tutti conoscete. Il nostro Enrico Pagliarini, che è insomma, la voce, tra le altre cose, anche quando parliamo di information technology e di mondo delle telecomunicazioni. Buonasera. Ciao Sebastiano, buonasera agli ascoltatori. Magari immagino che ne parlerai anche domani nel programma a questo sì, punto. Sì, sicuramente. Comunque hai detto bene, è una sorpresa da un certo punto di vista. Ti anche tocca se rifare negli... la scaletta. No. Sì, da un certo punto di vista dobbiamo rivedere alcune cose, però già negli ultimi giorni si diceva che avrebbero, no, che avrebbe fatto un annuncio e... a metà settimana è stata pubblicata un po' una sorta di WikiLeaks della tecnologia, è stata pubblicata una lettera che Stephen Elop, che è sconosciuto ma è l'amministratore delegato di Nokia da settembre, un ex Microsoft, già qui dovremmo capire alcune cose, è stata pubblicata una lettera che Elop ha inviato a tutti i dipendenti e diceva sostanzialmente: guardate che ci troviamo su una piattaforma che sta prendendo fuoco. Citando la storia di una persona che lavorava su una piattaforma del Mare del Nord, diceva: questa persona si è svegliata la notte, si è accorta che la piattaforma stava andando a fuoco e ha detto: qua o vado a fuoco oppure mi butto nel mare. Noi dobbiamo buttarci nel mare. E da qui poi è nata questa domanda. Questa... Cioè, loro, se ho ben capito, ci capisco veramente poco, come sanno anche i tecnici qui di Radio 24, devono tribolare col mio computer, però. A me questa cosa sembra un'alleanza importantissima che va a sfidare, sì, il colosso. Perché il titolo Nokia perde il 14,2% oggi a Milano e va malissimo anche in Finlandia? Beh, allora, sostanzialmente perché assieme a questo annuncio non ci sono state comunicazioni di target per quest'anno e il prossimo anno. Nokia si è limitata a dire: il 2011 e il 2012 saranno anni di transizione, senza dire quanto si risparmierà da queste sinergie, quali saranno i ricavi. E poi anche perché diciamo che nel mercato il sistema operativo di Microsoft negli ultimi anni ha perso quota, ha perso di appeal, e quindi molti operatori ritengono che questa sia un'alleanza estremamente difficile, e tra le due aziende chi ci guadagnerà di più sicuramente sarà la Microsoft, che appunto ha avuto delle difficoltà fino a qualche anno fa, quando c'era Windows Mobile, le cose non andavano certo bene. Adesso stanno andando un po' meglio con Windows Phone, che è un nuovo sistema operativo, ma sicuramente il mercato è molto dubbioso, perché effettivamente ci sono molti punti interrogativi aperti. Allora, questo per quello che riguarda il calo del titolo in borsa, che insomma... Sì, che è un calo piuttosto importante. 9% quasi, anzi oltre il 10% adesso alla borsa di Helsinki e il 14,20% da noi. Tra l'altro è un periodo in cui abbiamo visto vendere l'Huffington Post per 350 milioni, cioè un giornale di gossip di alto livello, per carità, ma sì, online... Ha una cifra che vale una grande impresa, una medio grande impresa italiana. Twitter oggi, ho visto una notizia tra ieri e oggi, che insomma, è stata valutata una cifra... Tra 8 e 10 miliardi. Miliardi. Sì, è incredibile. Effettivamente negli Stati Uniti molti si stanno domandando, non è che dietro l'angolo c'è una nuova bolla delle dot com, perché sostanzialmente sta succedendo questo, che alcune aziende, tra cui Facebook, hanno annunciato che andranno in borsa il prossimo anno, oppure Skype, che tutti conoscono, andranno in borsa nei prossimi mesi. Goldman Sachs ha dato un po' il via a queste voci, perché qualche mese fa ha cominciato a investire in Facebook e a dire ad alcuni dei risparmiatori, insomma, più ricchi di questa banca d'affari americana, ha detto: vuoi azioni di Facebook? E la valutazione di Facebook è cominciata a crescere a dismisura, così come sta accadendo per altre aziende, ad esempio Twitter, che tu hai citato. Enrico, fai però bene a ricordare che io non ho nessuna competenza, lo ripeto, per valutare se Twitter valga o no 8-10 miliardi, se l'Huffington Post valga o no 350 milioni, però siccome questa radio è nata proprio nell'anno del boom, della bolla della New Economy, ci siamo fatti un anno di salvadanaio in cui qualunque cosa, non solo Tiscali, Poligrafica San Faustino, ma ve lo ricordate? I vari titoli di allora, tutto quello che aveva un dot com dietro cresceva. Non vorrei ci stessimo... Infatti proprio negli Stati Uniti molti si domandano proprio questo, non è che sta succedendo la stessa cosa. Enrico, l'appuntamento è con te a domani 15.30 per capire ancora meglio quanto vale questo accordo. Devo solo precisare che Nokia ha sottolineato che non ha in programma una fusione con Microsoft, lo ha detto lo stesso numero uno Stephen Elop in un'intervista a Londra. Adesso salutiamo Enrico Pagliarini, che deve andare a rifarsi la scaletta. Grazie, sì, Enrico. Ciao. Allora, adesso io spero di ricevere una smentita. Presidente della Coldiretti Marini, buonasera. Buonasera a tutti voi. Mi dica che non è vero che è passato il decreto che proroga di 6 mesi il pagamento delle multe delle quote latte, ma soprattutto che non è vero che questo decreto verrà finanziato con 30 milioni tolti ai fondi per le politiche sociali, la famiglia, il diritto allo studio e i finanziamenti all'università. Abbiamo preso. Guardi, il decreto non è passato, semplicemente. No, faccio finire. Semplicemente perché oggi era soltanto in discussione in commissione bilancio, per cui in aula dovrà andare la prossima settimana. È nel decreto mille proroghe, però la brutta notizia è che è passato in commissione bilancio, per cui evidentemente per questa ulteriore proroga, secondo la commissione bilancio, i soldi ci sono quelli, e questa è una cosa gravissima, perché onestamente è una beffa non solo nei riguardi dei tanti produttori onesti che hanno sempre regolarmente pagato le multe come è giusto fare, ma anche nei confronti di tanti settori dell'economia, in particolare dell'agricoltura, che hanno veramente bisogno e dove non si riescono a trovare risorse. È una storia bruttissima questa. Sì, allora, parliamoci chiaro. Uno potrebbe anche accettare il fatto che 30 milioni vengono tolti dai fondi per le politiche sociali, che poi significano le persone non autosufficienti, sì, da un punto di vista anche della mobilità, i diversamente abili, il diritto allo studio, per carità, di fronte a esigenze di bilancio tremende, ma per darli a quanti sono? 400? 300? Sì, sono meno di 1000, decisamente meno di 1000, tra l'altro poi quelli... 500, guardi, ho il dato, 558, gli splafonatori irriducibili. Irriducibili, tra l'altro hanno avuto questi l'anno scorso la possibilità di... come dire, diluire il pagamento di questa di questa multa in 25 anni, pertanto voglio dire, tutto quello che si poteva fare onestamente si è fatto. È inaccettabile, ingiustificabile un'operazione di questo tipo, al di là, come diceva lei, di dove sono state prese le risorse, nel momento in cui di risorse c'è veramente... Beh, non è un dettaglio, se le prendono dalla tabella C, non è per niente della legge di stabilità, e cioè sulle politiche sociali, la famiglia, lo studio, l'università, non è un dettaglio, perché non le hanno prese i finanziamenti ai partiti, che lì magari siamo ti favamo rispetto a questa cosa. Già c'era stata una proroga lo scorso anno, avevamo contestato ferocemente, c'era stato detto che sarebbe stata l'ultima volta, questa storia va avanti ormai da decenni. Sì, diciamo, e tra l'altro, dunque, figuratevi che insomma, gli splafonatori devono allo Stato 93 milioni di euro, perché cosa succede? Siccome è l'Europa che ti multa, lo Stato paga in anticipo, poi chiede i soldi agli splafonatori, a questi agricoltori che su oltre 39.000 aziende che producono latte, stiamo parlando di 558 persone che sono fuori dalla legge. La senatoria Alemanno nel 2003 ha rateizzato per loro i pagamenti in 14 anni, non gli è bastato, continuano a... No, diciamo che quelli che hanno rateizzato in 14 anni, che hanno aderito a quella rateizzazione, stanno regolarmente pagando. Per cui c'è anche la beffa per chi ha aderito. Una decina di rate, per cui ci sono quelli che hanno pagato subito, quelli che hanno rateizzato e che hanno pagato, e poi ci sono rimasti fuori un migliaio di soggetti che non hanno mai accettato rateizzazione facendo ricorsi su ricorsi. L'emendamento è della Lega. Di questi 400 hanno chiesto una rateizzazione e poi comunque non vogliono pagare la prima rata. Sì. Insomma, veramente adesso la scusa inizialmente era quella del fatto che lo Stato avrebbe sbagliato a fare i conti, eccetera. Ma sa, una cosa dopo 20 anni i conti penso lo Stato avrebbe fatti bene. Sì, ma io mi chiedo anche, vorrei avere magari, proviamo a cercare Zaia lunedì, perché io mi chiedo anche per la Lega, per 558 voti, siccome l'emendamento della Lega, vai a compromettere la tua immagine con centinaia di migliaia di altri elettori che invece, tra cui agricoltori che hanno rispettato le quote europee, oppure che hanno tra virgolette condonato, insomma, che hanno aderito alla sanatoria Alemanno. Mi è una cosa strana anche da un punto di vista politico. Comunque, grazie. È stranissima. Però non mi ha dato una bella notizia. Comunque, anche perché poi questi allevatori, volendo fare un ragionamento così, una breve battuta, questi allevatori sono quasi tutti del nord, per cui anche quelli onesti, che sono il 99% e che hanno sempre pagato, stanno sempre lì, in quelle regioni lì, Veneto, Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, la stragrande maggioranza. Pertanto il conflitto è interno a quei territori, tutto interno a quei territori. Cioè le dice, la maggior parte di quelli che pagano, rispettano o che aderiscono alla sanatoria stanno lì accanto, diciamo, alla fattoria dove ci stanno questi 500 e 400 che non hanno pagato e 558 profanatori. Grazie presidente. Grazie a voi, buona giornata. Marini, e adesso direi facciamo la borsa e poi andiamo e ci trasferiamo a Fossalta di Piave. Ripeto, è un modo per raccontare i problemi di trasferimento di risorse dallo Stato ai comuni, del reperimento delle risorse dei comuni e però anche di distorsioni inaccettabili che questo può generare. Prima di tutto la borsa. Buona la chiusura a Milano e non solo, però Milano fa più 0,44%, un po' sotto i massimi di seduta nel finale. Parigi più 0,15%, Francoforte più 0,42%, Londra più 0,80%, l'America più 0,11%. Allora di Nokia abbiamo già ampiamente detto. Io a questo punto chiederei a Ciao Condina di Radio Corriere Sole 24 Ore, buonasera. Ciao. Buonasera a voi. Buzzi Unicem più 3,24%, di nuovo forte, Tenaris più 2,28%, Saipem più 1,75%. Vediamo come ha reagito il mercato anche ai conti di Snam Rete Gas. Mi sembra poco mossa oggi Snam Rete Gas, più 0,60%. ST Microelectronics meno 2,13%. Beh, qui c'è un effetto Nokia. Sì, decisamente, ne parlavi tu prima. Quello che diciamo che ha reso pessimisti gli operatori è stato soprattutto il fatto che Nokia non abbia fornito target finanziari per il 2011. Quindi ciò ha creato soprattutto diffidenza. Nokia, come sappiamo, diciamo ST è il principale fornitore di Nokia e quindi da qui il calo di ST in borsa. Ancora. Per quello che riguarda il Banco Popolare, oggi è finito l'aumento di capitale, il titolo meno 0,50, perdeva un po' di più, no? Sì, comunque breve recupero nel finale, comunque è stata una seduta decisamente difficile, comunque negativa per tutti i finanziari. Tra l'altro si segnala anche il meno 0,5% della Popolare di Milano, che era andata anche peggio dopo che un report di Mediobanca sottolineava la necessità di una ricapitalizzazione per l'istituto guidato da Ponzellini. Ancora Saipem, come citavamo, insomma, risente positivamente dai conti di ieri, più 1,75%. Sì, ieri era andata bene, oggi ha confermato il rialzo, i conti in effetti di ieri erano decisamente positivi, un utile netto adjusted che è cresciuto del 13% e poi anche una cedola ordinaria di 63 centesimi che non fa mai male. Non fa mai male, no. E andiamo un altro settore che invece mi interessa particolarmente. E mi riferisco a Pirelli, perché oggi abbiamo visto dei conti Michelin particolarmente buoni. Sì, ricavi praticamente a quasi 18 miliardi, più 20% rispetto all'anno scorso. Anche qui insomma c'è stato un effetto Michelin, diciamo, per Pirelli, che poi ha anche concluso ieri sera un collocamento presso, diciamo, investitori istituzionali di un prestito obbligazionario, un ottimo collocamento, e quindi questo mix di ingredienti ha dato questo rialzo in borsa. Mi confermi che su Buzzi Unicem non ci sono notizie particolari? Perché io non le ho viste, ma potrei tranquillamente sbagliarmi. No, non ci sono. C'è stata una reazione, diciamo, un pochino strana del mercato, che il giorno del preconsuntivo 2010 ha penalizzato il titolo. E poi da quel giorno, nelle tre sedute successive, in tutto più 11%. Quindi forse all'inizio il mercato si era un po' sbagliato e poi ci ha ripensato. Tenaris, perché anche qui abbiamo visto un andamento, per carità, altalenante, alla fine guadagnava l'1,7% e poi ha chiuso ai massimi, o sui massimi, più 2,3%. Sì, qui ci sono essenzialmente due fattori, c'è i titoli petroliferi che hanno ben performato dopo le tensioni, almeno questa mattina, sull'Egitto, poi si sono allentate con le dimissioni di Mubarak. Nel caso di Tenaris c'è anche un'altra notizia che circola nelle sale operative da tre giorni a questa parte, peraltro data da Radio Core, che è il fatto che la società ha costruito una riserva esentasse in Lussemburgo per svariati miliardi di euro, che permetterà anche nei prossimi anni di distribuire cedole esentasse ai suoi azionisti, cioè la famiglia Rocca, che ricordiamo è una delle famiglie più ricche d'Italia. Ancora per quello che riguarda Mondo Home Entertainment. Qui abbiamo un altro, diciamo, tra virgolette, colpo di mercato della società. A gennaio aveva annunciato una serie TV con Celentano, questa volta con un altro protagonista, famoso come Celentano. Si tratta di Ezio Greggio. Ezio Greggio ha fatto muovere il titolo. Ma ebbene sì. Beh, in effetti il Greggio influenza i mercati, potremmo dire. Dai, con una battuta il cinepanettone tira sempre. Con una battuta terribile. Allora, do anche altre variazioni percentuali. Stefanel meno 3,76%, poi Premafin perde il 3,80%, IT Whale 4,45%, invece tra chi è andato bene anche Mondo TV più 10,15%, Alcatel più 6,31%, Italcementi anche sull'ordinario più 4,41%, Montefibre più 4,88%, Casa Damiani più 3,53%. Ciao Condina, un augurio di buon fine settimana a te e a tutti i colleghi e alle colleghe, quindi Livia Zancaner e Leonore Micheli di Radio Cori sulle 24 ore. Buon fine settimana. Grazie a voi. Ecco, no, così, intanto, nella vita. Grazie, ciao. Ciao. Vedo che c'è chi scrive, vabbè, sulle quote latte, è arrivata adesso la nota anche di Confagricoltura che dice sulle quote latte ci sono delle prove generali per un condono tombale a favore di chi ha deciso di non pagare. Devo dire che ha ragione anche Confagricoltura, come la Coldiretti. E poi ancora più fastidioso, oltre che diciamo, vengano mazziati quelli che hanno pagato e quelli che sono stati nella legalità o quelli che hanno condonato, è ancora più fastidioso che questi soldi vengano presi dalla fascia che è riservata al welfare e quindi alla disabilità sociale, alla scuola. Insomma, questo è veramente insopportabile per 550 diciamo, splafonatori di quote che non ne vogliono. Non ne vogliono sapere di pagare. Devo dire una cosa, che c'è chi scriveva: chi se ne frega dei buoni pasto di Fossalta, di Piave, allunghi la borsa piuttosto. A parte il fatto che i titoli tutti li abbiamo dati, è sicuro che abbia un po' di fiducia anche nel sottoscritto, vedrà che non è una questione solo di buoni pasto per una bambina di 4 anni. Un rapido aggiornamento però a Bolzano, perché non abbiamo dimenticato il mitico presidente della provincia Dunvalder, che si è svegliato diciamo ai tempi di Francesco Giuseppe. Allora, oggi gli ha scritto anche il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, il quale ha detto, insomma, provo sorpresa e rammarico per le espressioni con le quali l'onorevole Dunvalder ha commentato la decisione di non aderire alle celebrazioni dei 150 anni dell'Unità d'Italia. Voi direte, ma cosa c'entra l'Alto Adige, e non sul Tirolo, mi dispiace per Dunvalder, è Alto Adige, con questo? Beh, c'è con un programma di economia, c'entra, perché noi ogni anno contribuiamo tutti agli abitanti del Trentino da una parte e dell'Alto Adige, anche del Friuli, della Val d'Aosta, della Sicilia. Nel caso specifico dell'Alto Adige, ogni abitante, che ne scrivono alcuni ascoltatori, sappiamo che i soldi li vengono usati bene, per carità, riceve 2.208 euro, così sono precisissimo, in più di quanto versa. In Lombardia sono 3.000 euro in meno ricevuti di quanto versa, in Veneto 1.500 euro in meno, per cui insomma un minimo di gratitudine verso gli altri italiani. Perché insomma, voglio dire, questo ce lo riconoscete, almeno sull'unità economica ci possiamo intendere. Poi c'è chi scrive, non fateli, lasciateli in Italia questi allevatori, guardi che l'Alto Adige è Italia, c'è il confine di Stato al Brennero, se non l'hanno spostato in queste ore. Però dall'Alto Adige ci spostiamo adesso a Fossalta di Piave per raccontare in realtà una vicenda che, ripeto, non è relativa al caso diciamo sociale umano, che è già importantissimo, dei buoni pasto. È una vicenda in cui, secondo me, si può raccontare anche cosa non sta funzionando in questo federalismo finché non arriva il federalismo fiscale, qual è la difficoltà anche dei sindaci nel reperire risorse e quali cortocircuiti mentali, errori possono essere fatti all'interno di questo quadro. Il tutto usando come snodo i bambini. Tutti i bambini fanno dammi la mano, perché mi lasci solo? Sai che da soli non si può, senza qualcuno nessuno può diventare un uomo. Quando i bambini fanno oh, che meraviglia, che meraviglia. Ma che scemo vedi però, e mi vergogno un po'. Perché direte voi parliamo di bambini in un programma che si occupa di economia? Perché i bambini non hanno peli né sulla pancia né sulla lingua. Perché c'è anche l'economia di mezzo con i bambini, nulla di strano, per carità. La vicenda la conoscete, l'avete letta su tutti i giornali. In un comune in provincia di Venezia, Fossalta di Piave, una bambina di 4 anni di origine africana, padre del Senegal, madre del Chad, non ha i soldi per la retta della mensa dell'asilo. I bambini fanno ti sei fatto la bua, è colpa tua. Dopodiché cosa succede? Le maestre le offrono i propri buoni pasto e notificano tutto al sindaco della città. Però, e qui interviene il sindaco, Qui si tratta di un danno erariale nei confronti del comune, perché le maestre non possono disporre così dei buoni comunali. Il buono comunale, il buono pasto comunale, infatti è incedibile. Più fil di lana, non so più fare una collana. Allora, chiariamoci, perché noi da sempre siamo per il rispetto delle regole, contro l'evasione fiscale, contro chi dichiara cose inaccettabili da un punto di vista del diritto, per cui è innegabile che il buono pasto sia incedibile. C'è anche scritto su buono pasto comunale, questo lo sappiamo tutti. Quello che obiettivamente a noi che ci occupiamo di buchi nei conti pubblici, di buchi nelle amministrazioni comunali, di buchi nelle amministrazioni regionali, di buco della sanità, insomma, parlare di danno erariale nei confronti del comune per un buono pasto che vale qualche euro, però siccome non ne sappiamo abbastanza, è sempre meglio far parlare le persone, e chiaramente non in questo caso il bambino né la famiglia. Tra l'altro la piccola ha quattro fratelli, il padre ha perso l'impiego da metalmeccanico che viene in Italia, è andato in Belgio a lavorare, e resta solo la madre affossata di Piave. Dicevo, è importante parlarne con chi questa decisione l'ha presa. Mi riferisco al sindaco di Fossalta di Piave, sindaco della Lega, Massimo Sensini. Buonasera e grazie. Buonasera a lei, dottor Barisoni. Allora, guardi, lontano da ogni polemica, demagogia, non è perché di mezzo c'è un bambino, avrei fatto la stessa intervista anche se di mezzo ci fosse stato una persona non abbiente. Allora, mi dica una cosa, con tutto il fatto che il diritto prevede che il buono pasto non sia cedibile, ma perché fa parte, se non ricordo male, del compenso mensile del personale. Insomma, veramente bisogna aprire una polemica del genere per una bambina di 4 anni perché le maestre, non avendo i soldi lei per pagare la mensa, la retta della mensa dell'asilo, le hanno girato il buono pasto? No, assolutamente no. Il problema, se vuole, non è il buono pasto, quel singolo buono pasto o qualcosa del genere, ma è il metodo. Non intendo, come posso dire, giustificarmi in nessuna maniera, perché qua ultimamente sembra che sotto attacco io continui a giustificare una cosa ingiustificabile. No, io ho chiesto la spiegazione. È la cronaca di quello che è successo. Noi di questa famiglia non sappiamo niente. Da un punto di vista sociale non è assistita dal comune. Non lo è mai stata, evidentemente perché non aveva esigenze o bisogni. Questa cosa ci capita improvvisamente, tant'è che io saprò che questo padre è in Belgio a lavorare sabato 5 febbraio, quando mi trovo con il fratello di questo signore che abita in un altro paese e che mi chiama lui. Mi chiede, ci dobbiamo trovare? Io, ben volentieri, finalmente qualcuno che mi sa dire qualcosa di particolare. La famiglia è molto riservata, e se vuole una nota che farei è che il padre se n'è andato in Belgio qualche mese fa, mi risulta, senza avvertire chi che sia. A parte questo aspetto, c'è solo questo episodio. Questa bambina non riesce più a pagare il pasto dal 16 di dicembre, fino al 16 dicembre era stato regolarmente pagato, quindi nessuno sapeva questa cosa, cosa sarebbe successo successivamente, e al rientro dalle vacanze di Natale, il giorno 10, l'ufficio scuola del comune viene messo a conoscenza di questo fatto, e lì si sviluppa una serie di cose e di ricerche varie. Io non so ancora niente di tutta questa storia, fino al 25 di gennaio, quando ricevo una accompagnatoria dal dirigente scolastico che mi allega questa strana lettera, insomma strana nel senso la cortese attenzione del dirigente scolastico, il buon impasto per l'alunna, firmata da 4 insegnanti e 2 del personale ATA, dicendo rinunceranno al proprio pasto a favore dell'alunna in oggetto per tutti i giorni di frequenza della bambina per l'anno scolastico in corso. Questo era il 25, io lavoro, quindi salto un giorno, il 27 rispondo assieme ai miei uffici. Faccio anche, se vuole, un discorso anche politico, gli dico, la prego di estendere al docente del personale ATA il mio più sentito ringraziamento per il gesto di alto valore morale compiuto nel privarsi del turno del proprio pasto. Insomma, faccio anche una considerazione, una considerazione, se vuole, politica, che mi dà fastidio che il comune possa pagare il pasto ai docenti e ai collaboratori ATA, in quanto ritengo che sia lo Stato che deve integrare lo stipendio agli insegnanti e ai collaboratori. Quel 50%, io mettiamo circa 3-4 mila euro, non sono tantissimi, che spendiamo all'anno per questi buoni pasto del personale, li impegnerei per scopi di maggior profilo, esattamente per l'assistenza a chi meno può. Dopodiché dico, è doveroso sottolineare che nessun monopasto relativo al personale avente diritto può essere ceduto senza incorrere in un danno erariale. Questa frase, che tanto ha suscitato lo scandalo, è stata detta dal mio ufficio amministrativo. Cioè, non è che io mi invento le cose. Lui mi dice, guardi, sindaco, lei deve scrivere questo perché non è possibile... No, ho capito, guardi, sindaco, ho capito l'intera dinamica. Ed è giusto anche che lei la racconti nel dettaglio, perché poi vede che anche tra le pieghe della vicenda si capisce com'è nata, che non è che lei ha preso un'iniziativa. Però adesso mi faccia fare il mio lavoro, che è quello di fare le domande. Allora, prima domanda. Se questo bambina fosse stata di Fossalta di Piave, avrebbe avuto la stessa reazione? No, questa bambina è di Fossalta di Piave. No, dico, se non fosse stata figlia di extracomunitari, lei mi garantisce... Ma è una cosa... Io faccio le domande, lei mi dica sì, no? Certo, perfetto. No. Allora, e questo... ma mi fa fare una distinzione che io... No, si sa perché glielo chiedo, perché... Io non parlo mai della mia parte biografica, però ogni tanto sono obbligato. Siccome sono veneto anch'io, c'è qualcosa che mi dà particolarmente fastidio. Non ce l'ho con lei in questo momento, ce l'ho con i miei conregionali, alcuni di questi, in questo periodo. Allora, a Montecchio Maggiore, a Vicenza, sospeso il pasto scolastico a chi è indietro con i pagamenti della retta. Vabbè, bisogna capire anche lì. Perché io dico, se tu sei un evasore fiscale, e in Veneto ce ne sono, come ce ne sono in Lombardia, in Calabria, in Campania, e non paghi, e arrivi col SUV e non paghi la retta, sarei il primo io a pignorarti il SUV. Ma se c'è un problema di indigenza, aspettate un attimo, no? Anche perché, guardate, e lei lo sa meglio di me, per un bambino a scuola non poter mangiare con gli altri bambini, ma non voglio fare il libro cuore, è veramente un'umiliazione. Comunque, Adro, Brescia, quindi siamo sempre al confine, nega la mensa, ne abbiamo parlato a lungo, nega la mensa che è moroso, un benefattore ha pagato per 42 alunni, stiamo parlando della parte più ricca del paese. A aprile dell'anno scorso a Verona ha sospeso il pulmino scolastico perché per le famiglie circa 15 che non avevano pagato le rette di 23 euro, anche lì stiamo ragionando di 23 euro, sicuramente se tu scopri che sono delle persone abbienti fai bene a sospendere il pulmino scolastico e denunciarli all'agenzia delle entrate, non so se si possa fare, ma andiamo a distinguere. Allora la mia domanda è questa, ma che cosa sta succedendo in una regione che dal 1876 al 1976 ha avuto 3 milioni e mezzo di emigranti nel mondo, in Australia, in Argentina, in Nord America, in Germania, che sono stati accolti delle volte anche molto male, e lei lo sa, sindaco, perché i racconti dei nonni e delle volte anche degli zii li abbiamo avuti tutti. Che cosa sta succedendo, per non capire anche politicamente, oltre che nel valore della solidarietà, che non si può bloccare una maestra che passa un buono a un bambino che non ha l'origine non c'entra nulla, benissimo, che non ha i soldi per la retta della mensa, me lo dica lei? Allora, facciamo questa distinzione. Intanto io non ho sospeso proprio niente. La bambina ha continuato a mangiare a carico del comune fino al 31 di gennaio. Adesso sta mangiando perché un benefattore ha offerto dei buoni pasto, ma avrebbe continuato a mangiare. Resta il problema. Cioè, questo è il tamponamento di quel singolo caso. Il problema è semplice, se vuole, da un punto di vista così, drammatico da un punto di vista sociale, ma semplice da un punto di vista economico, che i soldi sono pochissimi. Nel cappello che ha fatto parlava di un singolo buono di 2 euro, no, non è il singolo buono, è il singolo buono di quella bambina, ma bambini nella stessa identica condizione, anche peggiore, sono molti, e ognuno avrebbe diritto a avere la stessa, certo, lo stesso identico trattamento. Adesso parlo da leghista, qui il problema. Io sono un autonomista convinto. No, lei mi parli da sindaco, per favore, poi mi parla anche da uomo, da leghista, da Veneto. Che cosa sta succedendo nel Veneto? Io vorrei avere la possibilità di gestire i miei soldi in maniera diversa, i miei soldi come comune naturalmente, in maniera diversa. Io non so come andrà a finire, ma sicuramente finché si apriranno queste falle, il preavviso di una situazione drammatica che si sta aprendo per tante famiglie, non solo per questa, per carità, come ha detto lei, è anche una famiglia di colore, ma è un caso che sia capitato in quella famiglia, perché le dico che famiglie fossantine pagano anche dopo 2 o 3 mesi di buoni pasto non consegnati. Però ce lo vengono a dire, guarda, io non posso, tanto al GIP in comune, chissà che i soldi arrivino, e così succede anche. È successo sempre fino adesso. Questa era proprio una cosa così, se vuole, sconosciuta. Poi il fatto che fosse anche di colore ha scatenato il putiferio e le dico, a me dà fastidio questa cosa qua. Però da questo punto di vista, nel Veneto sta succedendo questo. Qui abbiamo un problema di un buono pasto, ma poi abbiamo il problema degli asili parrocchiali dell'assistenza agli anziani e non sappiamo più dove tirare fuori i soldini. Io del resto non posso e non voglio fare eccezioni per nessuno. Semmai è un problema di un'emergenza per qualche famiglia, la prendiamo in considerazione fin tanto che dura l'emergenza, ma non posso fare distinzioni fra famiglie. Io ho capito, lei dice insomma abbiamo situazioni di indigenza, non ci versano, abbiamo avuto un taglio, lo conosciamo perché Tremonti, che pure è un ministro a voi vicino, ha messo i vincoli di bilancio ai trasferimenti Stato-Regioni. Parte della manovra, buona parte, si riversa su comuni e regioni. Lei dice non abbiamo l'autonomia fiscale. Allora, il partito a cui lei appartiene, la Lega, insomma, sta cercando di fare federalismo. Lo facessero, se la prendesse con Bossi, con Zaia, ma insomma, ma cosa c'entra? Cioè, perché il punto di caduta di un federalismo fiscale che viene bloccato in bicamerale per un pareggio di voti deve essere una bambina di 4 anni di una famiglia palesemente indigente? Lo dico a chi sta scrivendo in questo momento delle castronerie, palesemente indigente. Sindaco. Certo che sì, le maestre non possono dare buono pasto, intervengo io come comune, ma non potete voi fare questa cosa qua, e questa è la differenza. Intervengo ovviamente come posso, ma le posso non assicurare. Non si potevano neanche ospitare gli ebrei durante la seconda guerra mondiale, sindaco, ma cosa vuol dire non potete, ma di tutte le cose di cui un sindaco si deve occupare, se una maestra decide, perché mossa immagino dalla commozione, non certo da, in qualche modo, da solidarietà, se lo ricorda il solidarismo sociale di tipo cattolico in Veneto, ecco, da quella roba lì. Se mossa da quella roba lì vuole dare il suo buono pasto, mi spiega perché deve intervenire il sindaco sulla base del principio che voi siete senza soldi perché vi hanno tagliato i soldi da Roma, dove c'è un governo del partito di cui lei appartiene. Mi dica, cioè, non capisco il nesso logico. È vero. Allora facciamo così, un esempio che ho fatto al mio amico senegalese due sere fa che ci siamo trovati. E gli ho detto una cosa semplice, se tu corri a 100 all'ora per la piazza di Fossalta, lo puoi fare benissimo, te ne assumi la responsabilità. Se tu mi scrivi una lettera, caro sindaco, guarda che da domani io passo per la piazza di Fossalta a 100 all'ora, io devo scriverti, non puoi andare a 100 all'ora. Sarà anche una banalità, ma è così. Cioè, non è che... Quindi, se ho ben capito, se le maestre non l'avessero scritto e avessero continuato a dare sti buoni pasto, così poteva passare. No, loro potevano dare il pasto. Buono pasto, cioè una maestra fa il proprio pasto, fa quello che vuole. Se loro mi avessero detto, ma non sarebbe neanche stato necessario dirlo, guardi che io cedo il pasto alla bambina, ma fai quello che vuoi, il pasto è tuo. Ma il buono pasto è incedibile, io ho scritto semplicemente una roba, se vuole, burocratica, ma ferma lì. Poi, se questi mi chiamavano e dicevano, guardi che noi non abbiamo la possibilità di mangiare la bambina, e io, come abbiamo fatto il resto, l'abbiamo dato sempre, l'abbiamo sostenuta fino alla fine. La bambina non ne ha subito praticamente nessun danno, non si è neanche accorta di tutto questo serio che è stato sollevato. Ma ci mancherebbe, noi interveniamo sul principio, non su perché ci ha chiamato la bambina, o i genitori. No, ho capito benissimo. Allora, mi dica due cose perché io devo anche chiudere, e mi fa piacere, lo dico anche a chi sta scrivendo di tutto, al 349-238-6666, ma in questo caso non voglio leggere i messaggi perché chiaramente poi c'è una componente che scade nel razzismo, una componente che scade in altri tipi di insulti. Non li leggo i messaggi adesso, però una cosa mi dica, sindaco, tornando indietro, tanto siamo io e lei qua, ma tornando indietro, lei di tutti gli atti amministrativi che deve compiere, veramente questo qua lo rifarebbe? Perché mi dice che non dovrei farlo? Mi scusi, non ho mica sbagliato, è stato interpretato, se vuole, in maniera sbagliata. Ma... No, ma la mia domanda è, ma un sindaco, cioè, non ha il dovere, prima ancora di compiere l'atto formale, di chiedersi che cosa si può fare per una famiglia indigente? Cioè, dire, guarda, allora, ok, non ti può... attenzione che questo non è possibile, non lo permette la legge, troviamo un'altra soluzione. Esattamente questo che lei sta dicendo, io mi devo porre il problema, se c'è questo problema, come lo devo risolvere? Dove vivono questi 5 bambini e la madre? Saranno a 30 metri dalla scuola. Perché a noi risulta che vivono gratuitamente presso la casa di Giuseppe Dalcin, ex consigliere comunale del PC, le risulta? Non so se gratuitamente, comunque vivono lì. Siete un paese, lei gli leva i buoni pasto, Dalcin gli fa pagare l'affitto, ma dai, immagino gratuitamente, sindaco, su. È così, allora vivono a casa gratuitamente. Allora voglio dire, questa è, uno potrebbe dire c'è un reato, non c'è un reato, è subaffitto, no, voglio dire, è solidarietà. Io la invito, anche perché voi avete tanti problemi, spendete 25.000 euro l'anno per tenere in vita i cani randaggi, 19 animali, giusto? Che va benissimo, non voglio avere contro gli animalisti adesso, ci mancherebbe, però 25.000 euro per 19 cani più o meno a spanne 1200 euro all'anno, no? Forse si può trovare, visto che li trovate per un cane, si possono trovare anche per una bambina. Chiedo questi soldi o no? No, beh, in effetti anche quello è un problema che ha sollevato, l'ho sollevato io. Tra quindi l'altro. Leviamo anche i buoni pasta di caccia, la soluzione è levare anche i cani. No, dico che se riuscite a trovare 25.000 euro per 19 cani randaggi, massimo rispetto per i cani, il resto dell'idea è che prima vengono gli uomini, però. Posso dire una cosa? Si sta montando un'ulteriore polemica sui cani, perché io prima di questa vicenda avevo fatto una proposta, anche se vuole provocatoria, perché 1.300 euro a cane, meglio dire 1.300 perché io ne spendo 25 perché il paese mio è piccolo, però ci sono paesi che spendono 100-150 mila euro all'anno per il mantenimento dei cani randaggi. Questo è un problema grosso. Ho trovato, sindaco, siamo in conclusione, ma io avrei trovato una soluzione. Ma se deste uno o due cani a questa famiglia da adottare e le girate i soldi che spendete per questi cani, no? Assolutamente sì, io sto facendo una campagna per... No, ha capito cosa voglio dire, cioè date un cane alla famiglia o due cani a questi quattro fratelli e con la mamma, e visto che spendete almeno per i cani 1.300 euro l'anno, su due cani sono 2.600 euro, lì con i buoni pasto dovremmo esserci o no? È già previsto l'aiuto del comune, cioè un aiuto finanziario, finanziario nel senso mangiare per cani eccetera eccetera, per chi adotta un cane. Ma allora vada da questa... quanti già hanno chiesto questa cosa? Nessuno ha chiesto di... Allora facciamolo, lei ci provi, dica a questa famiglia: volete anche un cagnolino? A noi ci costa 1.300 euro, a voi vi costerà un po' di meno un cagnolino all'anno, immagino. Scusi, io ritorno sul problema, io non voglio, ma non c'entra niente la famiglia sulla lettera che ho scritto. La famiglia è assistita, adesso ci stiamo prendendo in mano la cosa. Per ora l'ha presa in mano Giuseppe Dal Cin, ci risulta, che li ha ospitati in casa. Sono 8 anni che abitano lì, 10 anni, non so. Gratuitamente, ho capito. Comunque sono 10 anni che abitano lì. Ma senta, io le ripeto, sono veneziano, istriano e veronese, ma 21.000 euro medi di reddito per abitante, dichiarazione IPEF 2008, che sappiamo che poi c'è molto di più lì. Allora, con 21.000 euro, che poi diciamo che sono 30, stare buoni, è possibile che non si trovi una raccolta, un modo per dire, vabbè, troviamo delle un supermercato che vuole fare pubblicità, qualcosa di solidale, non la parte burocratica, amministrativa, attenta maestra, tu, il buono pasto tuo non lo puoi dare a quel bambino. Abbiamo capito, è vero, lei ha ragione, nessuno le ha dato di aver agito in maniera illegale, ma voglio dire, in questo paese... Cioè con il 70% di evasione fiscale anche in Veneto? Sindaco. Ma guardi che io sono perfettamente d'accordo su quello che ha detto. La solidarietà ci deve essere per forza, e deve essere una solidarietà chiara, non così buttata lì per la bambina eccetera eccetera. Deve essere una solidarietà che veramente ci accomuna tutti quanti. Io adesso non voglio inimicarmi i veneti. Perché ma nemmeno io, ci devo tornare, si figuri. Per cui. Ma di una cosa sono fermamente convinto: la mia lotta, se vuole, all'ipocrisia, e qui ce n'è tanta, scandalizzarsi perché una bambina non può mangiare e poi non donare niente, non fare niente, perché non solo questa bambina, ma tutti i casi simili possono essere messi, trovare una soluzione. Sì, dopodiché vediamo che arrivi sto federalismo e vediamo che non capiti più, perché a me già ad Adro il benefattore, tra l'altro anonimo, perché questa, la cosa pazzesca è che questi benefattori sono anonimi, perché non vogliono far sapere delle volte che loro hanno aiutato, cioè c'è un meccanismo stranissimo, non è l'anonimato delle volte di quello che dice io sono talmente... diciamo eticamente corretto che non voglio far sapere il mio nome, ci si vergogna quasi a dire che si è aiutato. Allora, dopo Adro, dopo Montecchio, dopo Verona, cittadini di Fossalta di Piave, cittadini, tirate fuori Schei, facciamo così, sindaco, la do una mano, tirate fuori Schei, siete ricchi più di loro, eravamo poveri e magna polenta, tirate fuori Schei, non c'è più obiettivamente... Non ci sono, non c'è più la povertà in Veneto, no? Ma lei ha toccato un o le risulta ancora sacchi di povertà da Pellagra che a noi sono sfuggite. Allora, c'è più la Pellagra, tirate fuori Schei, perché c'è una famiglia indigente come eravamo noi ed eravate voi 50 anni fa quando si migrava. Questo lo condivide come appello? Vengo a dirglielo a Fossalta di Piave. No. Va benissimo, no, l'appello va. Mi prepari un palchetto e un microfono. Fare praticamente, perché qua mi pare intuire che bisognerebbe aprire uno sportello, faccia quello che vuoi. Un conto, non so. Beh, questo adesso devo aprirlo io, conto. Vengo a aprire conto? Nel senso che bisognerà parlarne, effettivamente, da un punto di vista tecnico ci sarà questa difficoltà. Sì, però siccome siete un comune molto solerte e efficiente, tant'è che subito siete intervenuti sul buono pasto, sicuramente siete un comune così efficiente anche nel trovare lo sportello tecnico, lo sportello bancario, il conto corrente. Il sindaco vi farà sapere a brevissimo, diciamo dopo la pausa del fine settimana, dopo che tutti saranno andati a farsi il loro bel weekend, giustamente, avendo lavorato, nessuno ha rubato niente, però no, non è che siccome io ce l'ho fatta e tu no, o tu devi ancora farcela, me ne frego, se no... In tutti i comuni dove c'è questo problema. Poi speriamo che arrivi il federalismo fiscale, così avrete libertà di imposte e lei andrà a scovare anche gli evasori, così quelli col SUV che non vogliono pagare la retta e li becca subito, quei soldi lì serviranno a quelli che invece... Il SUV non ce l'ha. È così. Ecco perché siamo a favore del federalismo fiscale. Sindaco, si figuri. Siamo assolutamente a favore. È perlomeno una possibilità, ecco. Va bene. Vedremo alla prova di fatti se sarà in grado di risolvere tutti i problemi. Va bene. Di questo poi parliamo anche un'altra volta. Buon fine settimana. Grazie al sindaco leghista di Fossato di Piave, Massimo Sensini. Quando i bambini fanno che meraviglia, che meraviglia. Ma che scemo vedi però. E allora, basta, poi adesso mi ricalmo. Un ringraziamento a Mauro Del Corno e a Barbara Bianchi per l'assistenza in redazione e la supportazione anche questa settimana. Noi ci risentiamo da lunedì prossimo alle 17. Da Sebastiano Barisoni l'auguro di un buon fine settimana a tutti. Radio 24. La passione si sente.